Allora, sono le 22 passate da 4 minuti in questo istante, oggi è giovedì 2 giugno 2011, buonasera da Agostino Spolaore e ancora buonasera da Maurizio Calzavara. Buonasera Agostino. Siamo ancora qui. Sì, maratona continua. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici sono lo 049 875 6423, se ci volete contattare qui in studio. Se invece volete mandare degli sms a questa splendida artista che tra poco vi presenteremo, dovete fare il 346 23 20 033. Abbiamo anche le pagine su Facebook, che tra l'altro non l'abbiamo mai detto, Maurizio, sì, ma ci possono scrivere anche nella pagina dell'artista, io li posso vedere, quindi se avete domande anziché fare l'SMS lo potete fare anche tramite Facebook, lo possiamo vedere subito in diretta. Quindi vi ricordo, Blu Radio Veneto, una delle due pagine, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, e poi c'è la pagina mia, quindi Agostino Spolaore, c'è anche quella di Maurizio Calzavara e c'è anche quella dell'artista che adesso andiamo a presentare. È un artista che viene da Bologna, però Silvia, consentimi ancora una parola, un momentino. Io prima di partire con la trasmissione devo ringraziare veramente di cuore il nostro pubblico, perché ci stanno dando una dimostrazione di affetto enorme, ci stanno facendo un sacco di complimenti. Noi come speaker, collaboratori di questa emittente, siamo orgogliosi e fieri di fare quello che facciamo, di dare spazio agli emergenti, di dare spazio a queste nuove proposte musicali e di fare tutti questi live, proprio perché diamo l'omaggio a questi artisti che spesso e volentieri, io lo dico sempre, sono migliori anche di tanti big. E ne abbiamo avuti tanti, ne avremo ancora tantissimi, ne abbiamo già programmati tantissimi, quindi mi raccomando, non cambiate canale, questa è la vostra emittente preferita, Blu Radio Veneto, che vi ringrazia di cuore della vostra, come dire, della vostra preferenza nell'ascoltare questi programmi che vanno in onda tutte le sere dalle 21 alle 24 e martedì, mercoledì e giovedì specialmente, che non sono le tre serate dove ci sono i live. Questa sera chi c'è? Cominciamo in una fascia oraria che si chiama Rock Wave, c'è dalle 22 alle 24, assieme a me e a Maurizio, c'è una splendida, dicevo prima, cantante bolognese che si chiama... Silvia Falivene. Eccola là. Grazie per lo splendido, puoi aggiungerne anche altro. Fantastica. Che non sono mica solo splendida. No, sei fantastica, sei eccezionale, ma soprattutto scherzo, avrete modo di conoscerla, è di una simpatia unica. Grazie. Arrossisco, io sono timida. Ci credo. Guarda, un uccellino contattandolo mi ha detto: guarda, il contrario. Sì, mi ha detto: no, mi ha detto: guarda, che giovedì so che c'è Silvia. Sì. Mm. E fa, vedrai quante risate ti fai. Ah, bene. Va bene, staremo a vedere. Allora, Silvia Falivene viene da Bologna, benvenuta. Grazie di essere qui questa sera a Blu Radio Veneto. Grazie di aver accettato l'invito. Assieme a lei c'è il suo produttore, Michele Turchi. Ciao a tutti, ciao. C'è un veterano? Ormai sono di casa io, eh? È il chitarrista degli Horizons che non vorrei mai bravissimo, sbagliare. No, ma ti perdono anche l'altra pronuncia. E cioè Tommaso Stanzani. Ciao a tutti. Ma siccome non bastava, si sono portati anche una corista, cioè esatto. Elisa Mazzotti. Ciao esatto. A tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti e benvenuti. Grazie. Grazie a voi davvero. Maurizio. Sì, è una bella compagnia, cosa molto positiva, perché fa musica. Una musica, noi abbiamo sentito prima le prove, un'ora fa abbiamo provato, e ho detto ai ragazzi, c'è un po' di California stasera, la California non è che sia molto caldo qua, ma la California musicale fa sempre caldo, fa sempre amore musicale, quindi io sono molto contento. Vedrete, ne sentirete delle belle fino alle 24, abbiamo tante cose da sentire e tante cose da dire. Silvia viene da Bologna. Sì, bolognese d'adozione, ecco, ci tengo a precisare questa cosa perché sono lucana, però sì, ormai sono 11 anni che vivo in quel di Bologna e quindi diciamo che sono molto legata a quella città perché è lì che fondamentalmente sono nata musicalmente parlando, nel senso per quel che riguarda la mia professione, ovvero quella di provare a farla cantante. No, non è provare. Di esserlo. Di esserlo. Esatto, provare sempre, cioè, a livelli ancora più alti, ecco. Tu perché l'ambizione penso che sia una delle cose, insomma, che dobbiamo portare... portarci dietro. Sei un po' come il prezzemolo, sei ovunque, no? Oddio, è bello o brutta sta cosa? È bello, vuol dire che te lo meriti. Va bene, sì, sono un po' ovunque. Va bene. Infatti ho fatto un disco anche per essere ovunque, cioè. Proprio per questo l'ho fatto, per essere nelle case di chiunque. Sì. Io ho subito una domanda da farti comunque, perché siccome è un gruppo che ci tengo tantissimo, che che effetto ti ha fatto aprire il concerto agli Earth, Wind & Fire? Ah, guarda, quella lì è stata un'esperienza fantastica. Immagino. Fantastica, sì, perché potevi allora, chiamarmi, io, no? E lo so, ma non ci conoscevamo ancora, guarda, se no l'avrei fatto. No, quella lì, guarda, ti spiego in breve. In realtà io facevo parte di questa band che faceva delle cover, genere sempre soul, e in questa band io facevo comunque la corista. E ho avuto l'onore, insomma, di... abbiamo avuto l'onore con questa band di aprire questo concerto ed è stata una roba... cioè veramente hanno una carica, hanno una vitalità musicale pazzesca. Io, cioè, mi ricordo solo che sono, cioè, abbiamo finito la nostra, diciamo, la nostra apertura, sono scesa giù dal palco, mi sono goduta veramente questo concerto spettacolare, cioè, proprio ero praticamente assuefatta da loro, proprio coinvolta come se stessi sul palco con loro. Però ecco, mi permetto di dire anche questa cosa, magari non so se pecco di presunzione o che, però mi sono quasi meritata anche degli apprezzamenti da parte di una delle coriste degli Earth, Wind & Fire, quindi cioè, per me è stato un attimo, cioè, veramente un po' imbarazzante, nel senso che magari noi guardiamo sempre a loro, ecco, come artisti un po' più grandi, no, magari. Invece quando capisci che comunque trasmetti qualcosa, cioè anche tu delle cose da dire, da trasmettere a loro, ecco, penso che... E Morris White cosa ti ha detto? Non ti ha neanche parlato. No, esatto. No, ma perché non parlo bene l'inglese? No, sì, certo. si chiama Soul Tribe la band, vero? Dopo? Sì, Soul Tribe, esatto. Cover di cosa? Di rhythm and blues? Fanno sì, tutta roba, sì. Un po' tipo anche incognito questa roba qua. Ho capito. Bene, quindi hai fatto, sei stata coinvolta in tante esperienze. Sì, guarda, poi tra l'altro, ecco, io in qualità di corista a me piace molto come figura professionale, perché mi permetto di sottolineare questa cosa, che secondo me una persona che si approccia al canto, se è, insomma, se è un buon corista, cioè se diciamo si applica nel mestiere proprio di corista, cioè, sicuramente puoi anche comunque bravo come cantante solista, è un po' più difficile il contrario, quindi per me l'attività di corista è stata una palestra proprio grandissima, che comunque continuerò a fare. Sì, continuerai a fare, sì. Ricordando hai partecipato sì col Soul Tribe. Poi hai partecipato a una come lead vocal di una formazione che si chiama Vision Band, che sì, è un tributo Band, a Stevie Wonder, sì, poi Lazy Duo, sì, e poi hai il famoso duetto Thelma e Louise, di cui una Thelma è stata anche è qui stata prima qua, di me, esatto. Prima di te, esatto. La voglio salutare, Alessia Ippoliti. Sì, in realtà è un vostro progetto praticamente. Sì, è un progetto un po' particolare, nel senso che, ok, facciamo cover, però abbiamo battezzato questo nostro genere come Hot Acoustic Duet. Esattamente. Perché diciamo che siamo un po' autoironiche, diciamo che non ci prendiamo molto sul serio, perché abbiamo deciso di riprendere, ok sì, delle cover, però in maniera un pochettino più, diciamo, sensuale, anche se secondo la mia compagna di viaggio è più sessuale che sensuale, ma io ci avrei da ridire su questa cosa. Quindi insomma sì, abbiamo questo progetto che mi tengo tanto e... Alessia comunque mi ha promesso che venite a farcelo. Va bene, che... cosa vuoi? Summertime hot? Perché potrebbe essere un'idea. Perché cioè, voglio dire, un pezzo di Gershwin, cioè reso sensuale, guarda che non è mica, cioè non è che lo senti sempre. No, ma infatti, ma è per quello che ti voglio. Va bene, torniamo. Ecco, bravo. Torniamo. Guarda, Tommaso me l'aveva promesso ed è tornato. Tornato. No, sono no, ma presente. Guarda, io ho vista l'accoglienza, cioè, anzi, se vuoi posso rimanere qua. Ah, vabbè. Ci fai da custode. No, guarda, cioè, sto da Dio. Senti, vi porto i saluti di Max, che mi ha mandato grande un messaggio. Oh, ciao Max. Un abbraccio, Max. Grande Max Messina, che tra l'altro voglio ricordarlo, è presente nel disco. Io volevo farti una sorpresa, chiamartelo stasera, ero già in contatto con lui. Sì, è nome... Perché? Perché l'hanno chiamata, doveva andare in un pub. In ah, club. Pensavo perché si vergognasse. No. doveva andare a fare il cameriere in un pub. Va bene, però mi basta il saluto. Sì, sì, tanto è sempre con noi, è nel mio disco, quindi sì, è ovunque. Certo. È già venuto anche qui, poi. Anzi, posso... Cioè, tanto io adesso devo parlare. Certo, devo certo. dire un sacco di cose. No, ci tenevo a dire questa cosa che Max è presente, Max Messina, è presente nel disco non solo in qualità di batterista, ma anche in qualità di grafico, perché ha curato lui insieme a un'altra mia amica Manuela Gargiulo le grafiche del mio disco. Bene, io a questo punto direi che possiamo sentire. Sì, possiamo aprire il disco. Ho parlato però... già troppo. No, hai parlato giusto. Grazie. E possiamo aprire il disco suonando il disco. Suoniamo il disco. O ci fai qualcosa dal vivo? Oddio, questa è la domanda. No, facciamo un live. Dai, facciamo un bel live perché io amo i live. Benissimo. Cosa ci fai sentire allora? Allora, partiamo dalla traccia che dà il titolo al mio disco, che è L'immagine che resta. Ok. Ciò che perdo di me, tu porta via, si porta via l'immagine che resta. Tu porta via, si porta via il senso. Non credere agli attimi, tu meriti ancora di più. È inutile confondere, non è questo il senso di me. Tu porta via, tu porta via l'immagine. Tu porta via, si porta via il senso di un gesto, quel senso, l'immagine che ora resta. L'immagine che perdo di te, ma l'immagine che ora cerco è quella del senso di me. L'immagine che perdo di te, ma l'immagine che ora cerco è quella del il senso di me. Un giorno qualcuno ha detto che la mia musica è la conseguenza diretta del mio cuore, come lacrima ed emozione, vita e sole, tuono e fulmine, e come dargli il torto. Direi che ha centrato il punto. Non c'è niente di più vero, la mia vita è musica perché la musica stessa è fatta di vita, di emozioni, sensazioni, odori, perché la musica è emozione. Sono parole tue. Sì, in realtà, cioè, sono mie, però perché, cioè, me le han dette. Sono una cosa che mi è stata detta e io, cioè, all'inizio ero un attimo imbarazzata, nel senso che è stato strano vedere quanto, cioè, quanto questa persona avesse capito l'importanza della musica per me. Quindi per quello io dico che ha centrato veramente il punto, perché per me la musica emozione, infatti, è una, diciamo... Utilizzo questa frase spesso perché per me è questo, cioè io dico sempre una cosa durante i live o comunque ho sempre pensato questa cosa qua, che io quando canto mi emoziono emozionando, ecco, quando arrivo a fare questo, cioè emozionare emozionandosi è una roba, cioè io sono praticamente, mi considero arrivata, ecco, cioè sono le mie piccole grandi soddisfazioni e ho la fortuna di averlo provato spesso, lo provo spesso quando canto, soprattutto nei live, ecco, perché è una cosa che è un tipo di trasmissione e che avviene proprio, ecco, quando avviene in diretta e la senti a pelle. Siamo fratelli io e te? No, però perché? Forse sì, la pensiamo così. Io la penso come te, guarda. Sì, infatti, sì, per me, cioè, non c'è proprio... è una cosa che ho sempre, ecco, pensato, chiaro, il mio parere, è però, cioè, la sento così, quindi di conseguenza questo è quello che spero di comunicare, ecco, lo comunichi benissimo. Grazie. A proposito, grazie, di comunicazione, c'è un messaggio. Oddio. Dice: non c'entri niente tu. Oh no. Ah no, viva Max Messina. Dice. Alla grande. Grande Max, sei sempre davanti a tutti noi. Dai, sentiamo qualcosa. Tommy spacca tutto. grazie. Firmato mille. Sara. Sara, grazie Sara, però ci sono anch'io. Grazie, sì, però Max Messina è il migliore. Va bene, solo perché loro sono gli Horizon, sì. Solo per questo. Simpatico comunque. Esatto. Ciao, una grande Sara. Famiglia, dai. Esatto. Cioè, beh, io lo ricordo, il nostro numero di cellulare, se ci volete mandare i vostri sms, è il 346 23 20 033. Se vuoi continuo l'intervista io al posto, sì, di sì, Silvio, sì. Puoi andare, grazie. Dai, va bene, grazie. No, ciao, è stato bello però. Durato un po', bene. Dai, ma bombardateci di messaggi. Breve ma intenso. Tutti per Max. Ma però. Come, ma li ho pagati tutti? Ma com'è? Parlando di questo disco, L'immagine che resta, Silvia, tu hai fatto un omaggio, hai plasmato, rimodellato, ricreato i pezzi degli artisti bolognesi con cui hai collaborato. Esatto. Due sono qua davanti, per esatto, esempio. Esatto. Com'è questa idea? Un'idea gentile, un'idea importante di dare un omaggio a tutte le persone che ti hanno dato una mano sul palcoscenico. Mm-hmm. Mi è piaciuto il tuo gentile, grazie. Un'idea gentile, sì, mi piace. Allora, sì, praticamente ho deciso di fare, sì, questa sorta di omaggio a degli artisti, non solo perché sono artisti con cui ho collaborato, che sono artisti della scena bolognese. Bolognese, sì. Ma proprio perché credo molto in quello che fanno, cioè quindi nella loro genialità, quindi nel loro scrivere testi, forse anche perché è una cosa che io non so fare, ok? Scrivere proprio testi, cioè io compongo più a livello melodico, ecco. Certo, capito. Quindi volevo omaggiare loro perché comunque, diciamo, nel mio piccolo volevo dare, ecco, il mio contributo per, diciamo, far venire fuori e comunque far ascoltare quelli che per me sono artisti comunque di spessore e diciamo, un piccolo ecco aiuto a loro, ovviamente anche a me. We have a little help from my friend, insomma, esatto. Sì, perché comunque ecco un po' forse un po' quello che fate ecco anche voi con questa trasmissione, nel senso dare spazio e dare voce a chi ha qualcosa da dire, però di originale, quindi diciamo questo. Ma è stato difficile riprendere i pezzi, rimodellarli, plasmarli con la tua voce? La tua voce è la protagonista, sì, dell'album. Esatto, sì, praticamente quello che ho voluto fare, allora, a parte che ho voluto scegliere solo autori maschili, perché volevo praticamente ricolorare di rosa, diciamo, questi pezzi, usando appunto la voce, la mia voce è una voce femminile, ok? Allora, è stato difficile, nel senso, ogni brano ha avuto i suoi pro e i suoi contro, certo. Ecco, perché comunque, ecco, quello che io inizialmente, cioè, per la maggior parte dei brani non ho voluto troppo allontanarmi dal brano in sé. Com'era. Ok, esatto. Però, comunque, ovviamente, ho dovuto indossarli. Ecco, e in qualità di interprete, indossare determinati brani non è una cosa semplice, però è chiaro che li ho scelti. Quindi, ecco, quindi già avendo scelto, ho fatto una certa selezione in base ovviamente a questioni di tonalità, ma soprattutto in base a una questione di testi. Ah, ho capito. Perché ho voluto proprio fare questa cosa, cioè sottolineare proprio l'importanza della parola di alcuni testi, e quindi cioè proprio far sentire determinate cose. Ma questo è una cosa che ho fatto anche per me, perché io sono abituatissima, diciamo, a cantare in inglese. Sì. Ed era da un bel po' che non cantavo in italiano. Esatto, che non cantavo in italiano. Che è più difficile. Che è molto più difficile e molto meno musicale, se vogliamo. Quindi le difficoltà sono state parecchie, però, ecco, in un certo senso io con questo lavoro, con questo disco, sono un attimo rinata da un punto di vista musicale. Ti sei buttata nel senso positivo del termine. Sì. Mi piace, sì. Silvia, brava. Grazie. Gli è un messaggio. Sì, cos'è? Dice qui: mi piace Silvia, brava. Non la conoscevo ancora. Firmato Robby Bologna. Grazie Robby. Contattami. Contattami su Facebook, Silvia fa di bene. Grazie. Devo fare dello spirito. Beh, è giusto che sia così. Devi essere, tu che sei una che canta, devi essere preponderante. Esatto. No, dare... Ma anche perché, voglio dire, cioè, i fan sono i fan. Cioè, se non avessimo i fan. Ce n'è un altro, qui continuano ad arrivare. Vai, mi piace questa. Allora, roba. Silvia, è proprio vero. La tua voce riscalda le nostre emozioni. Grazie. Non si è firmato. Non so se è maschio. Grazie. Segreto. Grazie. Va benissimo così. Vuoi stare qui fino a domani? Me lo sono scritta da sola, in realtà, non l'avete visto. Io voglio sapere da Michele invece com'è Silvia. Madonna. È una cantante straordinaria. No, davvero, lo dico sinceramente, molto brava. Io la conosco da tanti anni ormai, tanto tempo, e lavoriamo insieme da tanto. E ultimamente ti dico che è migliorata tantissimo. Questo disco l'ha fatto proprio da professionista, quindi siamo già arrivati, secondo me siamo già arrivati. Ho già una certa età. Bisognerebbe muoversi un pochino. No, però posso dire una cosa, cioè, posso dire il soprannome con cui lui mi ha battezzato nel periodo di registrazione del disco, anzi, lo diresti, dovresti dirlo tu. Deriva un po' dal fatto che mi assillava un attimino, perché... un attimino. Ma perché per me sto disco è stato una sorta di parto, veramente. Cioè. Sì, però ci siamo divertiti tanto. Comunque l'ho soprannominata Angoscia. Angoscia. Quindi, insomma, Angoscia. Questo è quello che pensa, a parte quello che hai detto prima. È l'angoscia. Io ero l'angoscia nel periodo che precedeva il mio showcase. Quindi... L'angoscia perché voleva continuamente Michele sapere come va avanti, come procede. Perché sì, andavo... Ma ha chiesto a me comunque, vabbè, se vuoi rispondere. No, vabbè. No, però il rivale... Sono già due volte, mi stai cacciando già due volte. Hai ragione, rispondi tu perché ti chiamavo. No, vabbè, semplicemente perché io penso che quando una persona tiene talmente a qualcosa, a qualcuno... È normale farsi prendere, no, da mille domande, mille certo. dubbi, mille ansie, quindi ecco, forse io ho esagerato un pochettino. Una preoccupazione però, sana, sì, è dovuta, che volevo sì. che tutto fosse, ecco. Ma io ho una spiegazione, perché? Secondo me, al di là di angoscia, eccetera, perché tu volevi fortissimamente fare un disco da solista, sì, questo era l'importante. Sì, sì. Corista è bello, tutto quello che vuoi, ma fare un tuo disco col tuo nome è un'altra cosa. Sì, e quello, lo sviluppo porta a queste convinzioni, a questo modo di fare, e l'angoscia nasce da questo. Certo, ma infatti io lo dico sempre, cioè, era arrivata l'ora di farlo. Adesso, cioè, adesso vi rivelo un segreto. Dimmi che... questo disco è nato l'11 settembre del 2010. Stavamo andando verso il mare, eravamo in macchina io, Silvia e Elisa, e lì è nata questa idea, vero? Sì. Ti ricordi? Sì. E perché in realtà allora, durante questo viaggio, stavamo ascoltando un disco che è di uno degli autori che tra l'altro è presente nel mio disco, e che è Massimiliano Martinez, e che saluto. Salutiamo. Ciao Massi, esatto. ciao Massi. E, sì, l'idea è partita da quel giorno lì perché, insomma, da questo disco noi stavamo ascoltando questo disco, a un certo punto io sono stata colpita tantissimo da una traccia di questo disco che è Pioggia sul collo. E da lì, insomma, così, tipo la canticchiavo, anche perché io quando sono tipo in macchina, soprattutto nei sedili posteriori, amo praticamente con la musica che va a guardare fuori dal finestrino e perdermi completamente, quindi non, praticamente non considero chi è alla guida, cioè mi isolo completamente. Grazie. No, vabbè, nel senso, e in quel caso, in quell'occasione lì, mentre ascoltavo, ecco, questo pezzo mi ha praticamente rapita. E mi piaceva talmente tanto, così lo canticchiavo, e insomma Michele ha avuto questa idea, nel senso, mi ha così, l'ha buttata lì, nel senso, mi ha proposto questa cosa, ah, sarebbe bello se insomma la ricantassi tu, sai, con una voce femminile. Certo. Insomma, ecco, quindi quella è stata proprio la nascita del disco, dell'idea, esatto. E Tommy come ci ha messo le mani, Tommy? Che qui di ho rovinato tutto come al solito. Dove mi muovo io faccio danni, quindi... Allora, Tommy c'ha una presenza molto forte in questo disco. La premetto che io lo conosco da anni e abbiamo collaborato insieme. Ho lavorato come corista durante lo showcase del primo album degli, esatto, Horizon. E da lì, vabbè, poi sono nate comunque una serie di collaborazioni varie. E come è presente Tommy in questo disco? Allora, in diversi modi. Nel disco è presente in qualità di autore, comunque, di un paio di brani, sì, che sono in questo momento Fermo Immagine. Sì. E poi è presente nel disco, nella versione live, in quanto mio chitarrista acustico, nonché corista. Quindi ha una presenza. Una doppia funzione. Sì, ha una doppia funzione. Sì, la terza non la diciamo. Esatto, la terza la evitiamo, esatto. Ma ne ha una quarta. Cioè, ne ha anche una quarta, ma ne sì, ne è quella di è quella di proporre il tuo nome. È quella di proporre il tuo nome. Sei qui per lui. Sì. Ti ha convocato lui. Lui ha fatto la pubblicità. Giusto, scusate, mi ero un attimo perso, non capivo. Quando ma ricordiamoci degli vero, amici, Silvia. Vero, no, va bene. No, devo, Madonna, io devo, calma, devo... Che cattiveria. Io devo veramente ringraziare Tommaso, perché è stato lui che mi ha parlato. No, io tra l'altro allora faccio questa cosa così. Ecco, adesso mettiamo tutti a posto. No, lo ringrazio così in direttissima per quello che ha detto durante la loro trasmissione. C'ha la lacrima. Perché, insomma, mi era stato detto, insomma, che aveva fatto una certa presentazione nei miei confronti. Certo. E quando poi l'ho sentito, insomma, è stato mi sono molto emozionata, quindi grazie. Tutto sincero, quindi lo penso anche adesso. Non mi portavi mica qui. Certo. Puoi dargli un bacio se vuoi, tanto non ti vedo nessuno. Grazie. Grazie. Ci sono due sms, qui fioccano. Qui fioccano, ma allora, sono stata io, te lo dico. C'è questa dice, ma c'è anche il Mick Turchi? Ottimo! Ottimo, come direbbe il Francesco Poggipollini. È una fans? Ciao Sara. Ecco. La Sara Rullo, questa è sicuramente, lo so io, la saluto, un abbraccio. Ciao, ciao Sara. Ciao Sarina. E poi ce n'è uno dolcissimo per te, Silvia. Dai, sì. Ah, io tra un po' piango. Va bene, Silvia, i poeti a te si sono tutti ispirati. Raccontami il tuo tour e poi dimmi il tuo pezzo preferito. Brava tu, dai e vai. Madonna, vedi, silenzio, mi ha messo a tacere. Secondo me è un giocatore di basket, dai e vai. Mi ha messo a tacere, però cioè, dopo si possono avere questi numeri, vero? No, Madonna santa, grazie. Questa è... dovrebbe farti piacere, perché questa è l'immagine che hai dato te fino adesso. È l'immagine che sta restando. Certo. Perfetto. Io poi ho curiosato nelle tue pagine, ho visto che c'hai veramente molti fans che ti scrivono, ti mandano i saluti. Sono davvero, cioè, guarda. Dovresti essere fiera e orgogliosa. Sì. Ma io sì, ma io per questo, cioè, io sono timida. No, però queste no, è che quando, ecco, vengo toccata proprio ma penso che sia nel punto giusto, esatto, poi un attimino penso che la sensibilità faccia parte, sì, di te, sì, quindi sì, è normale, nel bene e sì, nel male, perché poi a volte essere troppo sensibile, però io sono così, quindi certo, non posso essere diversamente. Vi rubo 40 secondi, va bene? Certo. No, a dopo. A dopo. Spot. Pubblico e privato, le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco, mi senti? No, non... vado avanti io. Allora, abbiamo deciso di fare un pezzo. Eccoci qua, sono qua. Ecco, sono qua. Sei tornato. Lui torna sempre. Agostino, torna. È il telefono che... Il telefono? Sì, hai un altro messaggio. Beh, poi non ho fatto Devo niente. Fare i salti. Allora, sei uno schianto. Torna il Wolf a bruciare Bologna. Olè! Oh, grazie. Bella, no, questa, bellissimo. Grazie. Merita un applauso. Grazie. Torneremo, grazie, al Wolf. Posso dirlo, perché è il Wolf, insomma, posso fare questa, certo, no, perché certo, è un locale di Bologna in cui abbiamo fatto lo showcase, ecco, del disco, quindi quello nuovo, era per quello, esatto. Certo. Un bel posto. E salutiamo, sì, anche, sì, il direttore artistico Cabizzarro, del Wolf. Esatto. Il nostro, ciao, amico carissimo. Ciao. Ah, sei una star, insomma, questa sera. Potevi dirmelo subito, mi mettevo... Lo so, ma io ti ho detto che sono timida, quindi certe cose le nascondo. Vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spalore, che con Maurizio Calzavara sta cercando di farvi conoscere nella miglior maniera possibile questa splendida donna, questa splendida artista, questa meravigliosa amica, carissima. Basta. Basta. Silvia, fagli bene. Mi sto sciogliendo, tra un po' non ci sono più, Ma lo sai che ti voglio bene, ve lo, sì, dico in diretta. Allora, l'immagine che resta è il titolo del suo primo lavoro da solista. Sì. E adesso cosa ci fai ascoltare? Allora, vi faccio ascoltare la traccia numero 10, che si intitola La Noia Noi, ed è un brano il cui autore è Vincenzo Pastano, chitarrista di Luca Carboni, esatto, che, sì, salutiamo. E lui è uno degli autori, ecco, con cui ho avuto anche l'onore di collaborare. E comunque non so se lo sai, ma Vincenzo mi ha promesso che viene qua anche. Grande, lui, per forza, verranno tutti. Tutti. Per forza. Vi ho contattato tutti. Per forza, ma si sta troppo bene, io torno anch'io, guarda. E comunque è sempre merito di Max e di Tommaso. Esatto, sì, dobbiamo questa cosa a loro, sì. Perché... Quindi le provvigioni vanno a noi. Cioè, esatto, cioè, i primi sono stati loro. Così arrotondo. Esatto, tagliare il nastro, sì. Ascoltiamo la canzone. Sì. Stringimi, poi vai via. La pelle tua è un velo di ghiaccio. E guardati, guardami. Che non ti guardami. La noia è la tela di un ragno. Rockwave, l'onda del rock. Eccoci, una cosa che i nostri ascoltatori non possono vedere. E Tomas stava cercando la penetta della chitarra. Lo perdo la sempre. Stava prendendo la chitarra, l'angoscia. L'ha trovata. Michele ne aveva già una a disposizione. No, Tomas. Ma è importante, è fondamentale. Per un chitarrista, se non c'è quell'aggeggio piccolissimo, ma... con quello si fa tutto. Qualcuno suona anche senza, però, Tommaso. Sì, bisogna farsi necessità virtù. Se non la trovi, fai con le dita. Esattamente. Esatto. Dato che sono un incapace, purtroppo, se per usare il blender. No, ma no! Ok, parliamo di questo pezzo. I ragazzi lo stavano cantando mentre il pezzo andava. È una cosa molto bella. Molto, molto, molto bella. Come l'hai ricreato questo pezzo? Che... Allora, sì. Posso dire una cosa? Dimmi. Ricollegandomi a... innanzitutto di chi è questo pezzo? Allora, ripetiamo Vincenzo di chi Pastano, è. Vincenzo Pastano, vi salutiamo, chitarrista di Luca Carbone. Certo. Anche. Il testo di questo pezzo è di Barbara Cora. Di Barbara Cora e che Vincenzo Pastano. Esattamente. Sono entrambi, sono coautori. Ha fatto insieme. Allora, questo pezzo qua, ecco, volevo ricollegarmi un attimino al progetto acustico che ho con Alessia e Poli di Note and Melodies. Sì. Perché? Perché praticamente ho deciso di affrontare di indossare questo pezzo qui con, diciamo, quel tipo di mood che utilizzo nel progetto Thelma e Louise, ovvero ho deciso di dargli, ecco, un carattere un po' più sensuale, un po' francettizzante, un po' la francese, un po' così, sì, un andamento così che va e viene, un po', perché era molto collegato, ecco, anche al significato proprio del testo, certo, no? Certo. Cioè, quindi questa immagine, no, di un amore, insomma, che forse è arrivato un po' è andato alla deriva, ecco. Sì, quindi insomma che vacilla, ecco. Quindi vacilla. Diciamo, sì, ho deciso di dargli questo mood, possiamo dire. Sì, questo mood, sì. E tra l'altro live, ecco, ci tengo a precisare anche questa cosa, che live lo rendo ancora più sensuale, perché diciamo che quella è la parte di me che viene fuori. Sì, è presto, Michele dice, non è presto, sono solo 22:45. Perché è presto? No, non ho detto nulla. No, ma perché io ho diverse personalità, quindi ecco, devo comunque farle uscire tutte. Ne approfitto per salutare anche una tua amica che hai salutato tu la settimana scorsa, la Barbara. La Barbara Gobbi, certo che sì. Ciao Barbara. Anzi, volevo comunque farle tanti auguri per l'uscita del suo disco, perché è uscito pochi giorni 27 fa. di maggio l'ha presentato qui da voi in anteprima, esatto, quindi ciao un Barbara. Carissimo saluto a Barbara. Ciao Barbara. Ciao. No, sorpresa. Me l'hai fatta, chi la fa l'aspetti. Arrivo sempre dopo, amica dei pesci. Amica dei pesci, esatto. No, vi stavo ascoltando con interesse, quindi mi sono un attimo incantata a pensare, ma che carina, sta dicendo del disco. Poi Barbara, Barbara. Esatto, vedi. Tutto bene, lì. Benissimo, beh, te, cioè, comunque lo sai, no, com'è, quindi... Sì, proprio relax. Strabene, strabene. E te come va? Ah, io sono qua che vi ascolto, io grande. Sto bene, assolutamente. Grazie. Non avevo ancora sentito chitarra e voce così, perché purtroppo io al Wolf non ci sono potuta essere. Lo però... so, quindi è un piccolo showcase anche questo, esatto. Esatto, infatti me lo godo. Grazie. Ma che niente. Amica. Dei pesci, dei pesci, esatto, poi sono cose nostre. Ti persegno. Esatto. Barbara, Barbara, mi senti? Certo, ecco, sì. Ti ringrazio di aver aderito a questa sorpresa. Ma hai ricambiato. Se lo chiedevi tu, te lo chiedevo io, sai che mi voglio intrufolare. Cioè, esatto. Queste cose qua mi diverto. Ormai io c'ho la filiale da quelle parti là, no? C'ho tutti esatto. I collaboratori lì. Esatto. Un giorno facciamo un pulmino. Certo. Oh, sì, grande. Siamo la radio 24 ore. Grande. Certo. Tutto bene, Barbara? Tutto benissimo, benissimo. Si lavora, si suona, si fa tutto. Il disco sta andando bene, sì? Ma Dio, penso, non lo so, penso di sì. Ma io certo che sì. No, io sono soddisfatta perché, insomma, sono soddisfatta. Ok. Va bene, Barbara, un grazie ancora per aver partecipato a questo saluto così veloce alla nostra cara amata Silvia. Esatto, figuratevi, grazie a te, grazie a voi e... Buon proseguimento, io continuerò a ascoltarvi, c'è l'ombra della Gobbi. Esatto, sì. Grazie Barbara. Ciao Barbara. Ciao Ombra. Ciao. Me l'avete fatta, te l'avevo giustamente. Fatta. Insomma, almeno una te l'avevo esatto, fatta. Esatto, me l'avete fatta, esatto. Adesso me ne fai una tu però, cosa ci canti dal vivo? Te faccio una io. Ah, allora, facciamo una traccia che si chiama Fragile, sì. Che... è praticamente il brano il cui autore è la persona che abbiamo nominato prima, nel senso è la persona che ha detto tutte ha centrato ecco il punto, ha toccato quello che diciamo è il mio è il significato che io do al mio mondo, al canto, che okay? Quindi alla musica. Lui è Andrea Pagani e questa è la nostra versione di Fragile. È sempre a lieto fine, è fragile. Sei mai riuscito a prendere quel vento che porta via le lacrime. Hai mai pensato che un giorno le avresti rivolute? Ricordi quando non servivano parole, quando non bastava un sole per scaldarci, ne avevamo 200 dentro, ma il tempo li ha portati via. E quando c'erano solo sguardi e tardi per rimpiangere settembre, lo so, e so che più ami qualcuno e più sei fragile. Sei fragile, sì, sei fragile. Sei fragile. Capito perché la vita non è sempre a lieto fine. Wow, che dolcezza! Decisamente. Ricordiamo che questo pezzo originariamente è stato scritto, chiaramente giocato sulla chitarra di Andrea Pagani, sul piano di Michele. Michele, esatto, suona il piano in questo pezzo. Cosa anche, succede anche qualche volta. Come mai, Michele? Fate finta di niente. No, come mai hai deciso di suonare il piano in questo pezzo? No, in realtà se tu lo ascolti ci sono ben poche note, ma importanti, per cui alla fine diciamo che è rimasto quello che era stato fatto nel provino come idea. Esattamente. Per cui è rimasto così. Succede spesso in studio, comunque si fa una roba, viene bene, si lascia quella. Certo, e poi stasera la Silvia l'ha interpretata molto... molto scheletrico, volutamente scheletrico, con molto pathos, perché è un pezzo che deve essere interpretato così. Sì, sì, è proprio il testo che mi dà questo tipo di trasporto. Ecco. Esattamente. E comunque volevo aggiungere anche questa cosa. Dimmi. Che Fragile, come altri due brani, ovvero L'immagine che resta, che è il primo brano che abbiamo fatto, e un altro brano che magari facciamo sentire dopo, sono i tre proprio inediti, nel senso che sono i tre brani che sono stati scritti proprio, ecco, per me. Per te. Esatto, quindi ci tenevo a ricordare, esatto, questa cosa. E questo, in questo arrangiamento, in questa sera, cioè c'era Tommy che dava una colorazione alla chitarra, all'acustica, sì, mentre Michele, ancora la chitarra acustica, però dava una versione un po' al basso, cioè con una sonorità un, esatto, po' più volutamente così, che dava un effetto ritmico al discorso. Sì, esatto. Bella, mi piace la tua esperienza, infatti hai colto in pieno. Un po' di esperienza si sente. Sta diventando un'incombenza stasera, gli SMS. Michele, un po' davvero penseranno che sono io. Ma questo è bello però. Come ma anche gli altri. Sì, anche gli altri, ma questo è sempre qualcosa di dolce, è sempre bello. Siamo tutte in streaming strette a te. Sei fantastica, le tue amiche di Lavello in Bologna. Grazie, no, perché Lavello è il mio paese, ecco, di origine, provincia di Potenza, ok? Le mie origini lucane, è giusto che vengano fuori, oh, grazie, non so cosa dire, davvero, cioè, sì, questo aver raccolto un bel po' di persone da tutta Italia, insomma, è bello, è davvero bello. Vabbè, penso insomma che sia, ecco. Sì, Rock Wave va oltre, cioè, Blue Radio Show Rock Wave, cioè, dal vivo praticamente, sì, va, sì, oltre. Sì. Scavalca, andrà anche all'estero, sì, gente, sì, che all'estero ti, sì, può sentire è stasera, veramente... questo è il problema. Sì, siamo ascoltati anche in America. Perfetto. Sì, sì, veramente, anche in Brasile ci hanno ascoltato. Polonia, abbiamo avuto riscontri un po' in tutto il mondo, insomma, veramente, come dicevo prima all'inizio. Complimenti a voi allora, cioè questa cosa è no, veramente... Io i complimenti li faccio a voi emergenti, se mi consenti, perché siete voi bravissimi, noi vi diamo veramente la possibilità di farvi ascoltare. Però è tanto, cioè secondo me dare tutto questo spazio, ecco, è... non è una cosa, insomma, è una cosa... Per me è quello la nostra idea, il nostro ideale, la nostra politica, cioè quello che vogliamo fare. Insomma, sì, quello... perché comunque insomma si sa che è abbastanza difficile, ecco, anche perché poi per noi emergenti, insomma, emergere. Ci vogliamo diversificare un pochino, insomma. Esatto, e sì, l'avete fatto a pieno, bro. Sì, vuoi ricordare, oltre a Michele e Tommaso che sono qui presenti, chi ha suonato effettivamente nel disco? Allora, sono tanti, sono tanti, perché insomma comunque ogni brano ha delle partecipazioni diverse. Comunque sono tanti nomi, speriamo di non dimenticarne nessuno, però ci provo. Ti aiuto, mi aiuti, esatto, perché sono tanti. No, perché abbiamo voluto suonare tutti i consigli. Abbiamo voluto rispettare, esatto, cioè questa cosa qui, anche perché insomma io lo vedo anche un po' come un disco di condivisione. Ritorniamo al discorso di Weaver, di The Urban For My Friend, sì, quello, esatto, è veramente così. Esatto, esatto, anche perché voglio dire, veramente dietro a un singolo artista c'è il mondo, certo, certo, è giusto. Allora proviamo, allora partiamo dalla sezione ritmica, quindi batteria abbiamo Max Messina, che l'abbiamo già nominato un sacco di volte, e Filippo Brandimarte, che tra l'altro è con me nei live. Oddio, aspetta, forse c'è la no, sì, esatto, mi sono già aperto. No. Aiuto dal pubblico, aspetta, grazie. Quello, aspetta, io sto partendo con batteristi. Ivano Zanotti, no, esatto, perfetto. Gabriele Palazzi. E basta. Fabrizio Luca. Fabrizio Luca è il percussionista, io sto andando per strumento, quindi batteria abbiamo finito. Okay. Va bene. Percussioni, il mitico Fabrizio Luca, che c'è dappertutto, che Fabrizio Luca, che c'è da per lui, ecco, diciamo come che lui, come te praticamente, lui è stato, lui è stato fondamentale in quanto ha dato quel colore un po' acustico, ecco, diciamo è stato un po' l'impronta acustica che ho voluto dare. Poi usa un drum ecco, un po' particolare, delle percussioni un po' particolari, dei suoni che portano in determinata direzione, sì, brano lo indirizza come determinati momenti, così, certo. Io l'ho sentito in determinate evoluzioni, è fantastico, cioè, veramente fantastico. Se ci sta ascoltando la salutiamo, è importante tutti, secondo me, esatto, questi complimenti a sì, te però Fabri. Guarda che poi si monta la testa, quindi vacci piano con Fabrizio, perché ma no tanto suona, tanto è bravo uguale. No, però è importante quando suoni fare poche cose ma fatte, esatto, bene, essenziali, sono, esatto, essenziali, le più belle, esattamente, sì, perché comunque cioè, penso che la semplicità a volte faccia di più, ecco, rende, allora, bisogna sempre essere se stessi, sì quello sì, mai strafare, anche perché tanto, cioè, secondo me si va troppo fuori. Bravo, ecco. Chitarristi adesso? Ok. Ora respiro, nel senso. E sono tanti, ma sta principio. Ma è bello, perché deve essere, allora, così, no, il progetto. No, è giusto. No, solo che io veramente, secondo me, ho dei problemi di memoria. Allora, chitarristi. Uno già nominato, stranominato, Tommaso Stanza. No, come chitarrista no. Nel disco no, stavo scherzando. Io non dico niente. Non guardarmi così. Vado via, non ciao. Non guardarmi così. Anche da. Allora, Vincenzo Pastano già nominato prima. Beppe Girotti che ha già comunque anche è anche autore di uno dei brani di cui magari parliamo dopo. E con calma, ci vuole della grande calma. Ah, esatto, ce n'è uno, esatto. Uno che ci emoziona quando suona. Uno che ci emoziona quando suona. Sì, perché è molto bravo, quindi bisogna dire. No, ma forse non è, cioè non ho capito a chi ti riferisci. Andrea Pagani. Ma l'abbiamo già nominato Andrea Pagani. Ti ha chiesto il chitarrista. Ho capito, ma l'abbiamo già nominato Andrea Pagani. Ragazzi, calmi, non vogliamo. A me mi emoziona Andrea Pagani, non so. Bene, Andrea Pagani, ma l'abbiamo nominato, io pensavo che ne volessi dire un c'è altro. C'è il nostro Paolino Laganga. Paolo Laganga. Paolone, che gli diamo una abbracciatona forte. Ciao Paolo. Esatto. Oddio, sono troppi, io devo scrivermi. Beh, facciamo due puntate. Esatto, no, aspetta, no, perché sennò poi mi perdo così. No, facciamo così. Ah, no, scusa, aspetta. Dimmi. Antonio Capolupo è un altro, nonché autore di un altro pezzo. Un altro pezzo, esatto. Alessandro Betti. E poi dai, dimmi che forse li abbiamo esauriti tutti. Sì, direi che ci siamo. I chitarristi sono a posto. C'è Danielino Chiefa. Daniele Chiefa, esatto. No, povero. Daniele Chiefa che suona anche con me nel live. No, sì, povero. No, Dani, esatto. Auguri. Perché tutto. L'hai fatto, Daniele? Perché? Va bene. No. ok, Daniele Chiefa, poi basta. Tanto non ci starà ascoltando. Quindi. No, secondo me invece sì. No. Non lo so, non mi ricordo. Va bene, comunque basta. Vabbè, adesso... Dani, se ci sta ascoltando, esatto, un abbraccio. Chiedo scusa se ho saltato qualcuno, ma non credo. No, penso che... Non credo, esatto. Poi, basso. C'è uno Michele solo. Turchi, il basso. Il basso. Non basso. Esatto, il basso, Michele Turchi. Grazie. Nonché, insomma, il mio produttore artistico, che volevo sottolineare questa cosa. Poi, allora, tastiere, piano. Allora, Alberto Linari, che è con me nei live. E ora me ne dimentico. No, allora, ce n'è uno che ha un nome... è straniero, però non mi ricorderò mai il Mark suono, prego, Wonderpool. Tu. Esatto, grazie. Però mi sono... poi ha suonato Pino De Fazio. Mi sono ricordata Pino De Fazio e basta. Poi vabbè, no, Stefano Scardovi per le programmazioni, esatto. Il nostro papi. Esatto, il nostro papi. Ciao papi. Ok, ok, andiamo avanti con gli strumenti. Cosa mi manca? Mi manca, no, più niente. Finito. Hai detto tutto. La voce. Ti manca Elisa Mazzotti. Che manca abbiamo... la voce, esatto, vedi, stavo arrivando. Eccola là. Arrivando. Elisa Mazzotti, esatto, che ha contribuito ai cori insieme anche a Tommaso Stanzani. Veramente? Sì, qualcosa sì. Mi sa che l'hai fatta anche te, sai, non solo nei live, ma anche nel disco. Ma anche lì, aspetta, che ce ne sono tanti, nella sezione cori. Gianluca Rebuzzi, Alberto De Spini, e basta. Diciamo, e Massimiliano Martinez, che abbiamo nominato prima. Ogni artista prima. Ha dato il suo contributo con una piccola partecipazione. Ecco, no, perché questa cosa è una cosa che abbiamo voluto fare, nel senso, insomma, quasi tutti i brani, laddove, insomma, sentivo che... per me ci poteva stare, ho voluto lasciare la voce, ecco, dell'autore del brano, ecco, una serie di, una sorta di mini, capito, interventi, ecco, mi è qui. Piaciuta questa cosa. Aspetta che se fai così mi dimentico quello che c'ho da dire. alla grande. No, va bene, basta. Beh, hai detto tutto quanto. Esatto, ho detto tutto. Ma secondo me è stata una cosa un po' faticosa per te, però era importante. Sì, no, ma c'hai ragione. Era importante, guarda, solo che veramente tutti è, cioè ricordarli... che il disco vuol dire anche questo, sì, vuol dire sì. Il gruppo, vuol dire fare un lavoro di equipe, tutti quanti, esatto, hanno messo il suo. Certo. No, è che per ogni brano, stavo cercando di catalogare, certo, ogni brano, quindi di rimmaginare il tutto, quindi insomma, però sì. Credo, alla fine di questa trasmissione mi darete ragione sul perché l'ho chiamata angoscia. No, io gli stavo dicendo se vuole mettere la firma per restare qui, perché qui la gente qui sono continua. Abbiamo un ascolto notevole questa sera, qui sei piena di sms. Allora, uno dice, bellissimo che questo ovviamente, non ti commuovere però. Oddio, va bene, aspetta, il fazzoletto. La voce di Silvia è l'intensità che ogni persona dovrebbe avere nella propria vita. Che bello. Wow. Manu. Oddio. Aspetta, arrivo. Sì, vuoi che te ne leggo un altro intanto? Sì, dai, grazie che bevo un attimo. Dal gran sasso una valanga di abbracci. Silvia, sei una bomba. Grazie. Io vado avanti. Sì, vai. Like che rischio di essere monotona perché dico solo grazie. Poi l'hai cantata meravigliosamente. Sono a casa con le mie amiche. Era la prima volta che ti ascoltavamo. L'altra prima volta risaliva ai tempi del film in bianco e nero. Aspetta, avevamo gli occhi chiusi tutte. Grazie Silvia, credici, perché hai la stessa iniziale della star. PS, simpatico il tuo intervistatore che legge gli MS. Ah, grazie. C'è una piccola aggiunta, però. Grazie. Allora, li legge bene. Bella serata a voi, cin. Hai già capito tutto? Sì, credo di sì. Alcuni sì, alcuni no, però. E io non lo so, davvero sono abbastanza emozionata, commossa, sì, per queste, sì. Vuoi che ti faccia riprendere un po', ci facciamo ascoltare? No, nel senso no, è che, cioè, davvero mi fa, cioè, è che non riesco magari, ecco, forse dire a parole quello che Io credo che la cosa principale di tutti questi sms sia dentro di te, sì, se mi permetti, mi consenti. Cioè la tua anima, la tua persona, la tua presenza qui, non solo fisicamente, ma cioè, come affetto, come amore, come cuore, e il tuo modo di cantare la tua musica. Credo che sia la base di tutto questo grande successo che stai avendo questa sera e questo grande ascolto. Noi come Blu Radio Veneto ne siamo fieri perché ti fai molta pubblicità, però il merito è tutto tuo, insomma. Ecco. Grazie. Quindi credo che tu dovresti ringraziare tutti i tuoi fan. Io non so i fan, sì, ma io è che dire grazie, ripeto, io volevo trovare una sorta di sinonimo a sto, certo, grazie, perché dico sempre grazie, ma secondo me non è mai abbastanza. Io credo che questo tuo primo disco sia un punto di partenza. nel senso che devi continuare su questa strada, sì, perché sì. No, ma io non mi fermo mica. Ah, beh, ci ma anche perché non potrei, cioè nel senso è una cosa che fa parte di me, nel senso che penso che morirà con me, quindi non potrei. E secondo me farlo. Se tu continui ad essere così umile come sei sempre stata fino adesso, farai molta ma molta strada, Silvia, te lo dico veramente con il cuore. Grazie. Sai che ci conosciamo mai da tempo io e te. Esatto, esatto. Abbiamo chiacchierato tantissimo al telefono, anche ore, esatto, a volte. Esatto. E, beh, ve lo posso garantire, io l'ho sempre vista in questa veste. Cioè, ci siamo diventati grandi amici proprio perché lei è umile, semplice. È una cosa, come la sentite qui, la sentite anche nella musica, forse nella musica ancora di più perché esprime ancora di più se stessa. Sì, sì, sono proprio senza barriera, che è proprio. Guarda, d'altronde tu sono mi avevi. Io al 100%, forse tu, anche di più. Tu mi avevi promesso che stasera cantavi ancora con più forza, se ti ricordi. Esatto, Nancy, esatto. Per una cosa. Sì, sì, esatto. Sì, sì. E quindi ben volentieri ci sei qui davanti a me. Ascoltiamo qualcosa da disco o ascoltiamo qualcosa da acustico? Ma facciamo pure live. Facciamo allora, live. Ecco, così facciamo questa cosa qua. Dedichiamo il prossimo brano che. Allora, facciamo così. Ovvio, un brano che si chiama Ovvio e lo dedico quindi per il momento, ecco, a tutti i miei fan. Ecco, il mio modo di ringraziare al momento loro. Ok. Bañar finita. Eh sì, finita, fino all'ultima goccia. L'ultima goccia. Io quando sento queste cose qui mi sciolgo, cioè è una cosa... Questa è una musica che mi fa veramente impazzire. Io amo tantissimo questo tipo di musica, te lo dico veramente sinceramente. Questo era un, secondo me, un singolo potenziale, perché è una canzone pop decisamente. Sì, salutiamo anche Albertone Vespini. Esatto, Vespini, esatto. Che ha... Sì, volevo aprire una parentesi. Dimmi, posso, vai. Per, ecco, per Alberto Vespini, perché la persona, ecco, forse è un pochettino più presente nel disco, in quanto diciamo che con lui ho realizzato, ecco, la prima traccia di questo disco, esatto, che è L'immagine che resta, quindi essendo, ecco, la traccia che dà il titolo al disco, ecco, lui ha avuto, diciamo, una davvero un'importanza molto grande per me, quindi, e poi insomma perché anche con lui ho proprio collaborato, ecco, anche a livello quasi anche testuale, ecco, dell'immagine che resta. E ovvio, appunto, è un brano suo. E volevo appunto fare anche pubblicità ad Alberto Vespini, così che spero insomma possa venire anche qui, perché ecco un altro cantautore che stimo veramente tanto, quindi ciao Alberto. Dobbiamo sottolineare che qui in questa dimensione fino a qualche secondo fa c'erano tre voci, quella da Silvia, Michele e Tommy, che hanno impastato, che hanno equalizzato la musicalità, e poi una cosa molto bella, la slide di Michele. Mi fai sentire un altro momento, un altro slide, esattamente. A me piace molto lo slide. Vedi, lo slide è una cosa molto bella e molto americana. Fa molto affetto ed è molto americana. È molto americana. Però bisogna essere bravi. Io non sono proprio un chitarrista, quindi faccio per diletto, però insomma bisogna essere molto più bravi. Certo, ma sei bravo lo stesso. In ogni caso, quella bella è anche quella, sai, orizzontale. Sì. Quella è una cosa... quella fa poi fa scena. È molto americana, molto Amal Brothers Band. Quindi, i vecchi Santo e Johnny. Sì, Santo Johnny, sì, però sì, anche quello, però soprattutto, come ha detto giustamente Michele, molto americano, molto del sud degli Stati Uniti, secondo me. Yes. Esatto. Ok, bellissimo pezzo, molto californiano, la California non è il sud degli Stati Uniti, ma stasera l'abbiamo ricreata con questo pezzo, queste tre voci impastate assieme. Sì, infatti ecco la questione delle voci, cioè in questo pezzo proprio mi piace proprio tanto, cioè nel senso è un pezzo in cui proprio le voci sono state, ecco, studiate in maniera che proprio si amalgamasse, cioè proprio uno dei pezzi che cioè in cui i cori, secondo me, sono veramente, questo incastro di voci è bellissimo, quindi è complimenti. Ma facciamo un'altra ai miei coristi. Grazie, cara. facciamo un'altra con le voci. Facciamo un'altra immediatamente, sono 22, 23, 13, quindi un altro pezzo live. E quindi va bene, facciamo in questo momento. Ok. Cosa che fai? In questo momento, che guarda caso, esatto, di chi è? Guarda caso di chi è? È degli Horizons. Ma chi sono gli Horizons? Alla bolognese, te lo dico. Eh? Okay, facciamo quello. Blu Radio Veneto. Marea stesa su un posto che male mi fa, e sono timida e un po' nostalgica, e tu? Il mare già alto lo so, ma col mattino l'acqua si ritirerà, tregua di un giorno che poi mi abbandonerà. No, io non posso stare qui, no, non serve chiudersi in questa maschera di lacrime, lo sai che mi manca l'aria. Posso stare qui, no, non serve illudersi e andare via, e andare. andare via. L'onda che va e viene da me è troppo fredda, un brivido da, e sono in bilico tra terra e mare e tu. Tu non ci sei qui accanto a me ed io ho una grande paura senza te. Dimmi tu dove sei e io ti cercherò. Sì, no, non vado proprio via. No, ti stavo riferendo a me, sì, torno domani sì. sera. Versione bellissima di un pezzo che noi abbiamo messo su per un mese consecutivo. Ah, perché... sì, quindi la conoscevo. Eh sì, esattamente, la conoscevo molto bene, mi è piaciuta immediatamente. Io, Agostino e Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, abbiamo deciso questo e quindi per un mese consecutivo è andato in onda. Posso dire che questo è stato il secondo pezzo che abbiamo scelto. Mm. Sì, che abbiamo, cioè la seconda scelta è caduta subito. Su un brano degli Horizon e su questo in particolare, perché è un brano che mi è sempre... piaciuto proprio per il testo, ecco, proprio certo. Gli ho dato, mi sono spesso ritrovata, ecco, in questa situazione descritta dal brano, e quindi avevo proprio voglia di cantarlo. Non per intristirti, oddio, ma questa canzone l'abbiamo scelta quel giorno famoso che poi mi ha mandato quella SMS. Ah, ecco, ok, guarda, quindi, nulla, niente a caso. Niente a caso, niente veramente, a è caso. Stata una coincidenza. Mm. Proprio eravamo lì quando tu mi hai mandato quella SMS. Ah, ecco, vedi. Hai già capito tutto, sì, non diciamo altro. Esatto. Io invece ti voglio dire ancora qui, e non so, tu questa sera non vai più a casa. Allora. Va bene. Grande, lo sai che live esprimi tutta la tua anima. Finalmente stai decolando, cuginetta. Era ora che ti venisse riconosciuto l'incredibile grande talento che ti accompagna da tutta una vita. Forse un giorno riusciremo a duettare, magari su un testo scritto a quattro mani. Poi c'è una faccina sorridente. Infine, un pensiero va a chi sai, tu, sempre con noi. Spacca tutto, Fal. Grazie, questo è il mio cuginetto e... sì, anzi, io lo invito, spero che lui intraprenda anche questa strada, perché dice, deve, perché dice, guarda, cioè, la musica ci accomuna, quindi guarda, sto facendo vedere deve. A Chiara, sto facendo, guarda, vedi che c'è, sì, ma io, cioè, davvero, sono un po', io sono commosso più meno di male te, male che non mi vedo, non mi guardano, capito, che c'ho due occhi, sono commosso più di te, Silvia. Allora, questo dice, la tua voce stasera salirà più su delle nuvole, verso due stelle che brillano più di tu tutte e che ti ascoltano felici. Un bacio dal luogo in cui tutto ha avuto inizio. Io santo, io non vado avanti così. Ma non si no. È firmato questo? Questo non si è firmato. No, e poi ce n'è un altro che dice brividi con tante i lunghe. Brividi! Grandiosi ragazzi. Grazie. Allora io... vabbè, non... No, è filmato Sara questo. Grandiosi ragazzi, cioè, mi sa che... No, lo so, allora stavo per dire una cosa a vostro favore, cioè non si può. Ma non mi fanno parlare, non mi fanno parlare. Michele. No, allora io volevo ringraziare per tutti questi messaggi, veramente io spero veramente di meritarli e di cioè se di... ti arrivano te li meriti, Silvia. No, davvero, cioè, nel senso arrivare così, ecco, ritorno al discorso di prima, no? Emozionare, emozionandomi, cioè, non posso non farlo, ecco. Posso fare un po' il pavone? Vai. Posso dire una poesia che io recitavo tempo fa, che mi è venuta in mente mentre cantavi le tue canzoni? Vai. Te la dedico. Grazie. E dice, la tua grazia non fu mai superata da nessun altro uomo, e perché un uomo abbandoni ogni cosa, basta il racconto della tua bellezza. Dopo questa io... Che bello. Grazie. Applauso, si può? Bravo, io... L'ho sbagliata veramente, perché era, la tua grazia non fu mai superata da nessun'altra donna, non uomo. Vabbè. Allora ritiro l'applauso. No, era emozione. No, questo. Davvero, cioè... Io la dicevo anni fa. Grazie, perché, cioè, veramente, non lo so, io sono imbarazzata, mi state imbarazzando, basta, adesso torno un attimo. C'è un saluto, no, anche per Michele, da parte di Francesca. Oh, meno male, così da, aspetto un po', mi... Francesca che dice, evviva Turchi, con tante punti. Ciao Francescona Cavallari, ciao, esatto, bellissima. Te l'ha scritta quella tempo fa, mi scuso con Francesca, l'ho vista. È molto carina quella ragazza. No, comunque io volevo veramente ringraziare voi, cioè... Ringraziare Blu Radio Veneto, veramente Agostino, Maurizio, per questa. Ringraziamo anche la Chiara che sta facendo le fotografie. Esatto, Chiara, esatto, che grazie, tra l'altro, poverina. Esatto. Oh, abbiamo uno scoop, eh? Sì, dimmi. Oddio. Andiamo al Vaticano adesso. Abbiamo il Papa, okay. Abbiamo il Papa in ascolto, eh? Attenzione. Silvia, sei la meglio. Pure il Papa te sta a sentire. Bello. Un abbraccio da Roma. Quanto sei bella Roma. Grazie i romani. Quanti di Roma sera. A me mi piacciono i romani di Roma. E, no, e poi ecco, ringraziare voi e ringraziare ovviamente questi tre angeletti che mi hanno accompagnato, mi stanno accompagnando, che ti coccolano questa sempre. Sera che mi maltrattano ma mi coccolano, ma... anche. Quindi noi volevo ricordare i loro nomi, Tommaso Stanzani, Michele Turchi e Elisa Mazzotti. Grazie. E io ricordo i numeri di telefono, degli sms, se ci vogliono ancora mandare sms, ma stasera tanto ne hai tantissimi. Madonna. Allora, 346 23 20 033 per i vostri sms, per salutare Silvia o Michele o Tommaso. O anche Elisa, che non l'abbiamo mai sentita questa sera. Elisa, sono qua. Deve dire qualcosa, deve dire anche qualcosa anche lei, qualche parola. Io mi godo l'arte di Silvia. L'arte dei ragazzi, e rimango sempre estasiata dalla bravura di Silvia e come artista e come interprete nella vita generica, espande la sua essenza in ogni cosa che fa, questo le va detto, certo, certo. È bravissima e sempre più su. È stato difficile lavorare con lei, Elisa? No, assolutamente. È esigente? È esigente con se stessa, questo sì, ma è anche giusto, credo che sia da parte di un artista essere esigente con se stesso, perché deve esprimere il meglio di sé. Con gli altri è poliedrica, elastica, elastica. Perché giustamente i gusti e gli stili sono diversi e ci si deve adattare, venire incontro per far uscire un buon lavoro. Quindi no, Silvia è veramente brava, non lo dico soltanto perché le voglio bene come amica, ma lo dico con un occhio clinico, diciamo così, esterno. No, no, è veramente brava e si merita tanto, tanto, tanto dalla vita e dalla musica. Questo sì. Posso dire prego al posto di grazie? Perché prego! Cosa grazie, dite? Veramente. Facciamo un pezzo da disco adesso? Ma sì! Che traccia abbiamo scelto? Ma sì. Quella che piace allora, a me. Allora, una traccia che io... Esatto, quella che piace ad Agostino. Che? Che è non hai fatto mai. Che era numero... Esatto. Cosa che la numero 12. Che è la penultima, insomma, praticamente. Esatto, la penultima. E che è quello che io considero forse il brano un pochettino più sanremese. Può essere. Può essere. Vabbè. Mi piace questo sentiamo. Attacco iniziale. Mi è piaciuto così solo. Ok. Stringimi adesso e non c'è più. E chi te l'ha detto? Cosa poi sento? E stringimi ora, non lasciarmi andare. Ho un po' paura, sì, senza di te. Credo alle favole, se mi guardi. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 23:30, giovedì 2 giugno 2011, il primo giovedì del mese. E abbiamo inaugurato in una maniera sì, splendida. Dobbiamo ricordare che Rock Wave o Blu Radio Sera non va mai, non si riposa mai. Noi abbiamo trasmesso anche il giorno di festa. Oggi è festa. Ma esatto. E che festa! E che festa! È una grande festa stasera, assolutamente. Io vi voglio svelare un segreto a voi ascoltatori, tanto ce ne sono pochissimi all'ascolto. Ma prima di cominciare la trasmissione, loro tre hanno cantato anche Oh Happy Day. È vero. Oddio, ce la fate 10 secondi. Non ricordo il momento. Sì, sì, lo ricordo io. Era sulle no, ma cantava tu. Sì, sì, cantava Michele. L'hanno fatta per scaldare sì, la voce. Sì, per scaldare la voce e la chitarra. Sì. Esattamente. Per scaldare i neuroni. Allora, qui continua la saga degli SMS. Dice... Non capisco perché tu non sia famosa, Silvia, davvero. Neanche io. Il tuo stile è incantevole e indimenticabile. Max. Max? Non Max. So se è Max. Non lo so. Un Max. Perché ne conosco tanti di Max, ora che ci penso. Tutti Max, va bene. Grazie, quindi... Max. Comunque, ci poniamo allo stesso... E, ritornando al pezzo che avete fatto sentire adesso dal disco, che piace anche ad Agostino, questo riff sanremese, io voglio capire il perché. Hai la voglia, l'intenzione, il progetto, l'idea di fare anche una scappata sanremese, se è possibile, secondo te? Allora, guarda, io... Cioè, inutile negare che se la cosa accade... Mi fa veramente piacere, sì, a parte che io, ecco, confesso questa cosa, io da quando sono piccolissima seguivo il Festival di Sanremo, ero proprio un'appassionata, ecco. Poi magari, cioè, per un po' ho perso, ecco, diciamo, questa abitudine, però ero proprio una di quelle fan accanite, quindi ritengo che comunque sia forse il festival, uno dei festival italiani più importanti, ecco, per... Forse il più importante. Esatto, per la musica italiana, quindi certo che mi piacerebbe, forse uno dei sogni, ecco, del cassetto, e forse sì, forse è stato un po', voleva essere un brano di buon auspicio, sì, non esattamente, lo so, ecco. Aveva lo standard, possiamo esatto, dire. Esatto, e tra l'altro è uno di quelli appunto proprio scritti proprio per me, ecco, non okay. è... Esatto, da Alberto De Spini, comunque però, ecco, proprio improntato su di me, quindi... Ecco, proprio una scelta voluta, certo, proprio, mirata. Mirata, ecco, mirata. Può essere un progetto. Chissà, un progetto, esatto, si può sviluppare, esatto, chiaramente, esatto. Si può tentare. C'è andata anche Elisa molti anni fa, quando non era famosissima. Grande, poi sono andati di Argamaro, che erano assolutamente sconosciuti. Esatto, è l'unica esatto. particolarità, che gli emergenti li fanno sempre sentire da luna di notte, quindi... noi ci vantiamo come radio di aver avuto, prima diventassero famosi, chissà che non ti porti fortuna anche a te, dai. I Modà. Ah, perfetto, perfetto. Sì, una volta sono stati qua all'epoca. Non erano ancora famosi. No, è assolutamente sconosciuti. Ah, e poi sai. Bene, allora. Ok. Beh, abbiamo tempo, non abbiamo molto tempo. Esatto. Silvia, esatto. Non abbiamo ancora detto i tuoi link, i tuoi siti, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Dove ti possiamo contattare se qualcuno. Certo, allora, al momento, ecco, questa cosa, il mio sito ufficiale è in costruzione. Quindi, ecco, per quello dobbiamo un attimino attendere, proprio per questo, perché le mie. Esigenze, ecco, sono abbastanza pignola per queste cose, quindi però a breve arriva quello. Nel frattempo, comunque, sulla mia pagina Facebook, sicuramente digitando sì, il mio nome e cognome, quindi Silvia Falivene, e ancora sulla pagina MySpace, www.myspace.com/Silvia Falivene. Per il momento utilizzo questi due siti, ecco, questi due. Nonno Joe, lo conosci? Ah sì, ma tra l'altro è Veneto, eh. E sono qui che ti sto ascoltando. Complimenti, bimba, ciao. Grazie, non arrivo, eh. No, no, Gio. Sì, sì, è il proprietario di un'osteria in cui io avevo fatto una jam session con degli amici veneti e quindi sì, da allora lui, ecco, diciamo, è rimasto. Ha voluto continuare questa amicizia, quindi mi ha contattato così su Facebook e siamo rimasti grandissimi amici. Spero di tornare da lui a fare un po' di jam session. Una cosa voglio chiederti, fisicamente il disco come si può avere? Dove si può trovare? Allora, ecco, questa è un'altra... un'altra cosa. Un'altra cosa un po' particolare, ecco, che forse mi rispecchia. Però, allora, sicuramente lo metterò su qualche portale, però al momento non ancora, perché diciamo è stata una... Come stessa, nel senso che essendo il primo disco, ho pensato di fare questa cosa un po' particolare, nel senso io ci tengo che le persone abbiano proprio il disco materiale, proprio fisico. Ecco, perché forse io cioè sono molto legata, ecco, alle cose, alla fisicità, ecco, del disco, quindi io sono la prima, ecco, che acquista e ci tiene ad avere, piuttosto, ecco, che scaricare l'intero album da qualche parte. Quindi per il momento lo si può avere contattando me personalmente al mio indirizzo, alla mia email, che è cantolibero1980, così sapete anche la mia data di nascita, chiocciolalibero.it, oppure appunto sempre tramite la pagina Facebook. Ma questo perché, ecco, ora forse pecco di presunzione, però io volevo dire anche questa cosa, che al momento, cioè in questo modo, io sono riuscita a già vendere, diciamo, quasi 200 copie del disco, ecco, quindi sono già contenta. Diciamo che quando arriverò proprio alla duecentunesima, poi lo mettiamo sui vari portali. È stata una sorta di, ecco, sfida, scommessa. Nel senso, sì, scommessa con me stessa, e poi molto legata, insomma, al discorso della fisicità del disco, però, insomma... E a me ha fatto molto molto molto piacere, cioè è come se avessi ancora, insomma, un legame molto diretto con i miei fan. E la produzione artistica di Michele e poi la produzione del generale è tua, la tua produzione? Sì. Ho capito, sì, Michele ha prodotto artisticamente, diciamo, il disco? Esatto, sì, cioè, e poi tu hai dato anche la tua mano. Esatto, bene. Un'autoproduzione. E beh, come sempre si fa adesso, si questi parte, ultimi tempi. Esatto. Abbiamo fatto anche gli Horizon recentemente. Esatto. Però te lo studi, eh. Lo so. Va bene così. Come se te lo studi, mamma mia. Te lo studi molto, però, però è una bella cosa. Sì, ma io l'ho detto, cioè per me è stato veramente un mio figlio, io... Quando è uscito il disco, cioè, l'ho considerato proprio mio figlio, ero proprio, avevo la gioia proprio di... quasi come una madre con il figlio, quindi... Facci sentire qualcosa di tuo figlio adesso. Ecco, sentiamo qualcosa di mio figlio. Allora, adesso, giusto per fare una cosa particolare, ne facciamo due di brani. Esatto. Due di seguito? Ne facciamo, sì, due di seguito, quindi il primo è Come l'inverno e il secondo Fermo immagine. Ok. Ok. Nella mia schiena e l'aria sembra quasi musica. Dietro un miscuglio di pensieri, come una strana nostalgia, ritorni un'altra volta a casa mia, come un pensiero che ho scordato, come la mia fragilità, ridammi indietro l'altra mia metà, è come l'inverno sei per me. Vuoi, ritorno indietro a dirti come stai, se ti ricomincerai, se un giorno o l'altro capirai che sei lontano. Thank you. cose fuori dal mondo, nelle parole ma tutto intorno. Rimescolo le carte che non ho, come una trottola che gira, rimango sempre ferma qui, tra nuvole di sogni inutili. È come l'inverno, sei per me irraggiungibile. Se vuoi, ritorno indietro a dirti come stai, se ti ricomincerai, se un giorno o l'altro capirai che sei lontano. Che non sono stata più quella che cerco e che vorrei, quella che forse non è poi così lontana, lontana, lontana. Wow, c'era Chiara che era qui che ballava, hai visto? Hai visto, eh? Svegliamo un segreto, questo rumoretto è un ovetto. Sì, io facevo rumore io. È un ovetto, eh? È un ovetto. Non potete vederlo perché abbiamo, esatto, non abbiamo le webcam aperte. No, ma sai perché? Perché io in realtà sono una batterista mancata. Ah. Anzi, una una batterista mancata. Max Messina lo sa, perché io prendo lezioni di batteria da Max Messina. Basta parlare, basta parlare. Basta parlare, andiamo la seconda, avanti. La seconda, via via. Via, lasci tutti in piedi e vai, via, liberi lo spazio e come fumo, lentamente scivoli, via. Sei maestra del mio essere tu, sei stata dolcemente attenta a vivere per regalare a me i sogni tuoi. E pongo le armi. Sei stanca e non mi parli, cosa ti sfida lasciandoti immobile? Sorrido a fatica, lasciando niente al caso, voli via con ogni certezza e lasci scia in un fermo immagine. Vuoi decidere di raccontarti un po', cercando dei momenti in cui rinascere e liberare il peso dei perché. Perché cerco ideali, a volte inesistenti, e vedo distanze, il irraggiungibili. Senza parlarti ti guardo e penso, voli via con ogni certezza e lasci scia in un fermo immagine. Sciogli intensi veli di lacrime, muovi ancora il vento dentro me. Vibri come quando un brivido porta quete incontenibile. Bellissima questa qua, molto atmosfera. La precedente era molto legata al Sud America, una ballata sudamericana in cui entri perfettamente con le coordinate, con la tua voce. Due pezzi diversi, ma due pezzi sempre nell'insieme delle cose che tu ami particolarmente. Esatto. E questo disco sono le cose che tu ami. C'è sì, poco da fare. Infatti penso, cioè, non mi sono fatta mancare nulla. Esattamente. Devo dire. Esattamente. Esatto. Devo dire e poi i due musicisti che abbiamo stasera sono molto bravi, sono, danno una colorazione adeguata. Ti seguono, ti seguono, ti seguono. Tommaso, Tommy fa un suo giro con l'acustica e Michele colora con una specie di acustico basso, cioè una chitarra con un po' più ritmica. Esatto. Dà una specie di movenza e porta avanti il discorso. Poi c'è anche un'altra, la voce femminile sua, che è intervenuta in fermo e marcia. Sì, esatto. È intervenuta. Ogni tanto mi infilo. Ti infili ogni tanto, ma ti infili in momento giusto. Questa cosa, esatto, è bellissima. Grazie. Io volevo solo ricordare una cosa che ho dimenticato prima, nell'elenco dei chitarristi che abbiamo fatto, cioè, perdonami, ti prego, no. Volevo ricordare Roberto Priori, che tra l'altro, oltre ad aver messo mani in qualità di chitarrista, ha mixato, ecco, si è occupato del mixaggio e della masterizzazione del disco, quindi direi esatto. Lo sapevo che mi sarei dimenticata qualcuno. Ecco. Ma però noi mi tutti sono chiamato ricordata. Il maestro. Ciao Roberto. Ciao Robby. Ciao Robby. Importante ricordarci anche all'ultimo esatto. 346-2320-033 per i vostri sms. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavala abbiamo ancora circa una ventina di minuti in compagnia di questa splendida interprete lucana bolognese d'adozione, oramai sono romagnola. Metà e metà. Sei un po' di tutto. Esatto. E come si chiama Silvia Falivene, insomma. Come lo presenti live questo disco? Allora, in realtà, ecco, cerco... Come hai intenzione di presentarlo? Esatto, ho voluto, ecco, diciamo, per lo showcase e comunque anche per le date successive, sto cercando di rimanere molto, cioè abbastanza fedele proprio al disco, al disco. Come suona il disco, esatto, quindi infatti ho sul palco comunque, siamo in sette, ecco, però, siamo quindi una bella band, esatto, certo. Di batteria, percussioni, due chitarre, un'elettrica, un'acustica, basso, tastiere e la voce. Vincenzo, Tommaso e Max. E voci. Vincenzo, Tommaso e Max ci sono? No, in realtà nel live no. c'è solo Tommaso. Tommy. Esatto. Non mi hai mai chiamato Tommaso, come mai? Esatto, preoccupati. Non mi conto neanche se mi chiami Tommaso. Quando ti chiamo per nome non è buono. Esatto. Quindi sì, diciamo che live cerchiamo di rendere la cosa abbastanza fedele al disco, poi diciamo che abbiamo anche una versione un pochettino più, anche più unplugged. Più unplugged. Dipende anche dai posti in cui andate. Giustamente, esatto. Esattamente. Che è poi questa. Che è poi questa, esatto. Ma lo so, insomma. Ecco, vedi, perché ora ti richiamo Tommaso. Che voglia Tommaso. Di qui cresci. Una serata indimenticabile, augurandoti che sia solo l'inizio di una strada da oggi solo in discesa. La tua prof di italiano preferita è il secondo piano di via Murat. No, Dio, no, la prof No, la prof. Cioè, no. Hai smosso il mondo ho stasera. Smosso, mamma mia, ragazzi. Grazie. Cioè, veramente, grazie. Grazie. Io sono felicissimo per te. Comunque sai. C'è me. Secondo me Agostino se li sta inventando tutti. Esatto, dici, però è bravo, cioè, però no, vedi, c'è la Chiara che io mi, cioè, mi fido della Chiara. Non abbiamo cancellato neanche esatto. uno, se vuoi te li passo poi. Esatto, esatto. Se no, altrimenti sei un attore, guarda, bravissimo. Sì, no. No, grazie, mamma mia, veramente. Cioè, è comunque stata veramente... sì, serata indimenticabile anche per quel che mi... Che tra mi riguarda e che ci riguarda. Tra l'altro, sì, ricordiamo che, non per essere presuntuosi come radio, ma questa è la prima volta che Silvia mette piede in una radio. Sì, è vero. Però difficilmente la toglierò. il mio piede. Quando l'ho contattata la prima volta, mi diceva: guarda, viene a Fagiolo perché è uscito da poco il disco e quindi verrò a presentarlo. Poi mi fa: guarda, che io non sono mai stato in radio. E lì subentra la mia angoscia. Oh, sì. Ecco che subentra Michele, allora. Vero? No. Esatto. C'ho ragione. Esatto. Però è stato bellissimo, sai, veramente. È stata una serata indimenticabile. Anche per non pensavo. Cioè, ero un po' agitata stamattina. Sì. Però sì, sì, poi... Cioè, anche ieri ormai... sera eri un pochino, eh. Vabbè, ti ho sentita, cioè, ieri sera un po'... È normale. Guarda che non ho neanche dormito, te lo devo dire. Ok. No, mi sono alzata prestissimo. No, però insomma sapevo che era così. E la radio è una dimensione diversa, c'è poco da fare. Quando uno entra qua dentro e comincia a suonare, dimentica tutto quanto. Sì. Entra proprio nell'insieme della radio. Sì. La radio ha un modo, ha una forza incredibile. La televisione guardi il personaggio, la radio devi sentire il personaggio. Però ti distrae, esatto. E la televisione ti distrae, la radio no. Esatto. E Radio Kill, Radio Star, non è successo, è ancora viva la radio, nonostante quella profetica canzone bellissima dei Bagos di tanto tempo fa. Esatto. E la radio esiste sempre più forte. E queste sono le espressioni vere della radio, secondo me. No perché la facciamo noi, che la radio dal vivo è un'altra cosa. Certo, è una grande palestra anche la radio live, certo, assolutamente. Sì, sì, ma io proprio a favore, cioè veramente a favore. Vuoi che ci ascoltiamo un altro pezzo da disco e poi... Ma sì! O vuoi fare ancora due canzoni te da live? Ma facciamo uno e uno. Facciamo un e disco poi... esatto. Okay. Allora, da disco facciamo la traccia numero 8, Identità. Benissimo. Ok. Tesa e lontana dalla realtà, fuori da un mondo che luccica, fuori dal tempo che giudica. Scivolo dentro una trappola fatta di dubbi e perplessità. Cosa mi manca, cosa non va, ora che perdo stabilità. Che cambiano Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Come vedi, cantare in italiano ha messo a nudo la tua vera essenza. Avevo ragione, zio. Ciao, zione! È vero, è vero. Sì, sì, ma io l'ho detto, mi sono riscoperta. Cioè, l'italiano è inutile, cioè comunque la mia lingua, quindi c'è un'immediatezza. Ma perché avevi voglia di cantare in inglese? Mi piaceva di più, ma perché il discorso era un po' più musicale, claro, comunque certo. Più, sai, anche più facile, però non c'è nulla da fare. L'italiano ha vinto su poi di me. Poi c'era la prof di italiano prima. Esatto, esatto. Ha vinto su di me. Sì, sì. Adesso però ti voglio sentire nella canzone, come dire, intima, la canzone VIP. Come che quella possiamo... che considero un po' la chicca. La chicca, esatto, la perla. La chicca. La stiamo aspettando del, tutti. Del disco, esatto, che è stato, diciamo, il singolo che ho lanciato prima. Quello che gira anche su, esatto, YouTube. Esatto, che gira adesso su YouTube, esatto. È una perla. Eh sì, è una chicca, è una chicca. La vogliamo dedicare a qualcuno? E, guarda, io la dedico a voi. Oh, che gentile, sì, sì. Grazie. Agostino, allora. Chiara e Maurizio. Grazie. Quindi la dedico a voi, Maela. Ok, vai pure. Ieri sera il tuo odore m'appartiene, mi tieni sveglia all'alba con la voce che hai, con la magia. Mi chiedi perché son lì con te. Con te. Guarda in cielo, c'è un'unica stella dal nome Maela, sì, sei proprio quella. Guarda in cielo grande cometa che accarezza il mio viso con mani di seta. Era ieri, ieri sera, con la voce che che bella, eh? È una perla acustica, percussiva, con un ritmo un po' orientaleggiante nell'insieme del pezzo. Qui chiaramente non è stato possibile, però il ritmo c'era ed era importante. Esatto, l'abbiamo reso lo stesso. Esattamente. Esatto. Siamo arrivati alla fine. Sì. No! Adesso piango. Ecco. Adesso piango. Uffi. Quando ritorniamo? Quando volete. Le si fa come si fa nei locali. Esatto. Dopo che si è suonato, si chiede un'altra data. Facciamo un'altra data. Facciamo. Ci siamo piaciuti, esatto. Facciamo un'altra data più che volentieri. Anzi, già ve la strappo come proposta. Sì, sì, ma guarda, non c'è bisogno di strappare. Nel senso. Speriamo veramente che siete stati contenti. Insomma. Contentissimi. Allora, assolutamente contentissimi. Assolutamente. Io ringrazio davvero. Di nuovo Agostino, Maurizio, Chiara e Blu Radio Veneto. Ringrazio le persone che mi hanno accompagnato, questi miei musicisti da strapazzo. Sti disgraziati, io non lo so. Beh. Tommaso Stanzani, Michele Turchi e Elisa Mazzotti. Grazie a te, Silvia. Io, insomma, davvero ringrazio voi perché mi avete dato, ecco, avete dato a Silvia Falivene l'opportunità di farsi conoscere, far conoscere il suo primo lavoro discografico, che voglio ricordarlo, e si chiama L'immagine che resta, e sperando, ecco, che sia restata un'immagine abbastanza positiva di questa serata, per me sì, E vi ricordo che per avere informazioni su di me potete contattarmi sulla pagina Facebook digitando il mio nome e cognome, quindi Silvia Farivene, nonché sulla pagina MySpace, sempre digitando nome e cognome. E ricordo ancora questa cosa per avere il mio disco, che è appunto L'immagine che resta, sono 13 brani inediti. E basta contattare me personalmente, quindi tramite i link che ho dato, oppure direttamente all'indirizzo mail cantolibero1980@libero.it. Io sono Silvia Falivene e vi ringrazio. Non ho parole. Adesso, respira. Okay. Prima di salutarvi, sì. Cosa ci fai ascoltare innanzitutto per la canzone, per tutti i tuoi ascoltatori? Esatto, questa va dedicata a tutti, davvero tutti e anche di più. È l'ultimo brano del che è presente nel disco, Città Sognate, un brano di Gianluca e di Beppe Girotti, che è un po', ecco, diciamo, il brano di chiusura, nel senso che ha un'atmosfera per me proprio, ecco, di chiusura, ecco, quasi di saluto proprio. Sì, è molto particolare con l'ausilio del programmatore nell'album. Chiaramente qui non c'è il programmatore, però le sonorità sono decisamente importanti lo stesso. Io, se mi permetti, voglio fare una cosa che non ho mai fatto. Oddio. Voglio lasciare io la tua immagine prima di suonare con l'ultima canzone. Posso sì, dire sì. Qualcosa su di te? Sì. Allora, voi chitarristi, mi preparate Maela di nuovo come sottofondo, che io leggo le parole sue di Silvia. Però prima di farlo ne volevo approfittare, anzi ne approfittiamo, dobbiamo salutare Maurizio e dare appuntamento alla settimana prossima, sempre domani. Qui. Io non ci sono. Ah, ma... tu non ci sei, sì, esattamente. Allora, io vi devo dare due appuntamenti. Quello di domenica, per quanto mi riguarda, c'è la finale del concorso 1-2-3 prova, di cui io sono uno dei giurati. Se non lo sapete, adesso lo saprete. E vi aspetto alle ore 21, se non sbaglio, in centro a Padova. Sì. Ci sarà in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a tutti. Sono 8 finalisti e quindi avranno modo di suonare le loro canzoni, cantare le loro canzoni. Poi uno dei giurati sono io. Poi vi do l'appuntamento appunto a giovedì prossimo, perché ospiteremo in studio alcuni di questi vincitori, questi partecipanti della serata finale tra virgolette, appunto in 2-3, penso che sia circa ogni 45 minuti a testa, sì, ecco, più o meno circa un'ora e mezza, 2-3. Questo per quanto riguarda giovedì, questo, cioè il prossimo e anche l'altro, quindi il 9 e il 16 sarà dedicato ai concorrenti di 1-2-3 prova. E detto questo, Blu Radio Veneto ancora una volta è felicissimo e ringrazia questi artisti che sono venuti a trovarci, cominciare da Silvia, Tommaso, grazie. Michele e Elisa. Grazie. Li aspettiamo ancora. Ciao, sì. Grazie a voi. E se mi suonate, poi cominciate pure con suonare la canzone ultima. Va bene? Mi tenete in sottofondo quella che dicevo? Te la teniamo adesso, eh? Sì. Un giorno qualcuno ha detto che la mia musica è la conseguenza diretta del mio cuore, come lacrima ed emozione, vita e sole, tuono e fulmine. E come dargli torto? Direi che ha centrato il punto, non c'è niente di più vero. La mia vita è musica, perché la musica stessa è fatta di vita, di emozioni, sensazioni, odori, perché la musica è emozione. Silvia Falivene. Scivoli via, io che mi trovo a casa non ti trovo, il caso in questi giorni non ho molta fantasia. Thank you. divano c'è, su quale pavimento, a piedi nudi, c'è un angolo di me che assomiglia a te. Tu che ti fermi, non ti fermi, scivoli via, chissà dove, chissà perché. Rock Wave, l'onda del rock.